Dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna, lasciando dietro di sé città e territori devastati, Mu e Magma trasformano la quarta edizione della rassegna di musica contemporanea itinerante Elementi in un'occasione di unione sociale e di supporto alla comunità. Ci saranno 12 live gratuiti in 6 paesi della Romagna. Noi abbiamo qui con noi Alex Montanaro del collettivo Magma, che ci introduce cos'è il Festival Elementi e che supporto darà in un momento difficile per il territorio. Ciao Alex, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao Olga, buongiorno e grazie per avermi accolto. Sono contento di poter parlare con voi di Elementi, una rassegna che nasce nel 2020 durante la fase pandemica e che nasce proprio con l'intento di voler creare una nuova abitabilità all'interno di luoghi fortemente simbolici, dalla forte carica naturalistica, che potevano in quel momento creare un'opportunità per dei momenti di aggregazione e per portare l'arte contemporanea all'interno di quegli scenari che non in maniera ordinaria vengono utilizzati proprio per quello scopo. In questo momento in cui la Romagna è stata fortemente colpita da un evento catastrofico, abbiamo deciso con entrambe le associazioni, Mu e Magma, di portare avanti il progetto Elementi, principalmente perché teniamo al territorio della Romagna e pensiamo che i momenti che vengono creati dalla rassegna possano essere un momento di aggregazione, un momento simbolico anche per poter ripartire, per potersi vedere, per poter comunque portare gente in Romagna, dare la possibilità di poter vedere i luoghi che in questo momento sono fortemente colpiti da questo dramma che sta toccando tutti, chi emotivamente e chi personalmente. Grazie per avermi ospitato. Grazie a te per aver accettato l'invito. Fai parte del collettivo Magma che, come ci hai ricordato tu, insieme all'associazione Mu siete un po' alle fondamenta di questo festival. Entrambi i collettivi sono associazioni che operano sul territorio principalmente romagnolo da diversi anni. Io faccio parte dell'associazione Magma. L'associazione si è costituita nel 2020, ma operiamo sul territorio dal 2014, indagando principalmente tematiche che riguardano l'arte contemporanea sonora, performativa e anche visiva. All'interno dell'associazione Magma convergono diverse menti, tra le quali curatori, artisti, persone che comunque hanno una sensibilità spiccata nei confronti dell'arte. Mu invece è un'associazione culturale che fa base a Cesena e principalmente opera nei confronti del suono e dell'arte contemporanea, organizzando concerti e momenti d'ascolto, workshop. Siamo una ventina di persone che anche durante la fase pandemica ha deciso di portare avanti il progetto reinventando quello che era il nostro intento, o meglio, portando all'interno del momento, quindi all'interno del qui e ora, un intento che è quello sempre del voler portare cultura, voler portare gente all'interno di momenti che possono essere sinonimo di aggregazione, dialogo e cultura. In questo momento Elementi si trova nella stessa fase in cui si trovava all'inizio, ovvero in quel momento pensammo che il territorio romagnolo poteva offrire comunque tantissimi scenari dove poterci insediare e poter coinvolgere gente e artisti. Partimmo con l'organizzazione di eventi all'interno della Salina. Per quello che riguarda Salina, apro una grossissima parentesi che mi porta al presente, nel senso che attualmente la Salina è sicuramente uno dei luoghi più colpiti del territorio cervese, anche perché è stata allagata, sicuramente sarà compromessa la sua operatività nel 2023. La Salina è stata allagata anche per salvare Cervia e altri territori, perché è diventato un bacino di accumulo di acqua. Primo evento di Elementi del 2023, che sarà il 4 giugno, vorrà parlare tanto di Salina, nel senso che noi stiamo tentando comunque di organizzarlo dentro la Salina. Sono attualmente in corso le fasi di ripristino dell'area. Sarà per noi l'opportunità di lanciare una raccolta fondi e di lanciare il percorso di Elementi 2023 come ricaduta nel sociale, non solo come momenti di aggregazione, ma anche per creare queste raccolte fondi che vorranno aiutare in maniera focale delle realtà oggettivamente molto colpite in questo momento. I luoghi che saranno coinvolti all'interno della rassegna Elementi percorreranno un po' tutta la Romagna. Si partirà il 4 di giugno con il primo evento in Salina, che stiamo provando a produrre. Se non riusciremo a produrlo perché il luogo non sarà praticabile, il luogo alternativo è già stato individuato e nel caso verrà comunicato alle persone coinvolte che si sono già iscritte all'evento entro 3 giorni dall'evento. Potrebbe essere la Casa delle Farfalle a Milano Marittima, un'area che si affaccia sulla Pineta, comunque molto affascinante. Il secondo evento, che doveva essere il 26 di giugno a Consalice, che è il luogo forse più colpito della Romagna e ancora sta subendo sicuramente tanti drammi perché è ancora allagato. Tutti gli altri eventi saranno svolti perché il 7 di luglio ci sarà l'evento a Villa Orestina a Faenza, seguiranno gli eventi della Bassa Romagna e di Cesenatico. Il 14 di luglio il primo evento della Bassa Romagna sarà all'interno dell'aeroporto Francesco Baracca di Lugo, anche quello un luogo molto suggestivo che accoglie per il secondo anno il festival. Il 16 di luglio saremo a Cesenatico al Parco di Levante, il 30 di luglio si tornerà in Salina e confidiamo che al 100% si potrà fare l'evento, il 13 di agosto ci sarà invece l'evento conclusivo ad Alfonsine, quindi sempre in provincia di Ravenna nella Bassa Romagna, a Casa dell'Agnese e Casa del Diavolo, che sono due casolari immersi nella campagna vicino al fiume Senio. Questi saranno gli eventi che accompagneranno la rassegna elementi per l'estate 2023. Grazie mille Alex per averci introdotto a questa bellissima iniziativa e ringraziamo sia il collettivo Magma che il collettivo Mu per darsi da fare, per ritrovare la solidarietà umana che in questi giorni si sta vedendo più che mai e portare l'arte, la cultura dal basso in Romagna che ne ha bisogno e per trovare anche un modo per ritrovarci tutti insieme in un luogo dell'Emilia Romagna veramente stupendo. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo e noi ci vediamo al Festival Elementi che inizia il 4 giugno. Grazie mille a voi, crepi il lupo, vi aspettiamo in Romagna, forza la Romagna!